La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici, un saluto da Franco D'Assisti. Siamo alla Rosa Purpurea, all'ora di cinema settimanale di Radio 24. Che settimana, che parterre de roi per il cinema, con le nuove uscite in sala, maestri del calibro di Michel Haneke, di Bernardo Bertolucci, di Oliver Stone, insomma, dagli Oscar alle Palme d'Oro, ai Leoni, una settimana molto molto densa, forse la più densa di qualità, almeno sulla carta, ma non solo, di questo inizio di stagione. Allora, andiamo subito a entrare nel vivo dei nostri temi trattati in trasmissione con i titoli di testa. Arriva sugli schermi italiani la Palma d'Oro del Festival di Cannes. Amour di Michel Haneke è un viaggio nel dolore e nella forza di una coppia di anziani devastata dalla malattia, con due immensi attori, Emmanuel Rivat e Jean-Louis Trintignant. Weekend d'autore anche per il cinema italiano. Un fratello, una sorella, una cantina. Sono gli elementi di Io e te, tratto dal libro di Nicolò Ammaniti e firmato da Bernardo Bertolucci. Storia di una finta fuga per passare la linea d'ombra. Alla Rosa Purpurea, la protagonista Thea Falco, nuova scoperta del regista emiliano. E se un politico corrotto e corruttore cominciasse improvvisamente a dire tutta la verità? Ecco Viva l'Italia, la corruzione, gli sprechi, il clientelismo e il paese che si oppone e che resiste. Nel cast, Michele Placido, Raul Bova, Ambra Angiolini e Rocco Papaleo, nostro ospite. Torna Oliver Stone, ma sembra Tarantino. Il regista di Wall Street torna a raccontare assassini nati. Taylor Kitsch e Aaron Johnson sono due produttori di marijuana di fronte all'avanzare dei narcos messicani. Due ore di sangue, sudore e lacrime. Completano il cast John Travolta, Blake Lively, Benicio del Toro e Salma Hayek. Amour di Michel Haneke. Abbiamo voluto mettere insieme in questo inizio di programma le due anime del film che ha vinto il Festival di Cannes nello scorso mese di maggio, Amour di Michel Haneke, seconda Palma d'Oro nel giro di pochi anni dopo Il Nastro Bianco. Prima l'annuncio dalla voce di Nanni Moretti, che da presidente della giuria appunto proclamò il vincitore dal palco del Teatro Lumière di Cannes, e poi la musica di Schubert, così presente in questo incredibile, durissimo e fortissimo film di Michel Haneke. Del resto il regista austriaco ci ha abituato a non andare troppo per il sottile, a non cercare troppo giri di parole cinematografiche e a raccontare le cose che il nostro animo tenterebbe di nascondere, citando quasi un suo film, ricorderate, Niente da nascondere. Cosa succede in Amour con questi due straordinari attori ultra ottantenni, Jean-Louis Trintignant ed Emmanuel Rivat? Succede quello che succede e che forse è successo in ognuna delle nostre, delle vostre famiglie, che abbiamo visto capitare ai nostri genitori, ai nostri nonni, che vedremo forse capitare anche a noi, chi lo sa, da protagonisti, da assistenti o da vittime. Succede che si invecchia in maniera a volte anche verticale, anche improvvisa. Succede che ti sei illuso che la tua vecchiaia, la tua terza età stava andando tutto sommato bene, che riuscivi ancora a essere autonomo, che riuscivi ancora a godere delle bellezze della vita. I due protagonisti del film, delle bellezze della musica, dei concerti dal vivo, del pianoforte. Succede poi che un giorno qualcuno, puoi essere tu, puoi essere il tuo compagno, la tua compagna, comincia ad avere delle dimenticanze, dei passaggi a vuoto, sembra quasi perdere la memoria per un attimo o per attimi interminabili. E succede allora che ti rendi conto che sta cominciando qualcosa di inesorabile, di senza fine, di senza uscita. Ed è qualcosa che con il quale ti devi rapportare, gioco forza ti devi rapportare. Molti si rapportano in maniera giustamente, comprensibilmente disperata, altri trovano il coraggio di agire, di stare lì e di fare svolgere quasi militarmente il proprio compito contro questa insopportabile, umiliante degrado portato dalla malattia. Ed è quello che succede alla coppia di questo film. Quando Anne ha un ictus, il suo corpo rapidamente, anche se gradualmente, comincia a deperire, l'uomo di una vita, il suo amour, George, le sta accanto, decide che lei non dovrà andare in un ospedale, non dovrà andare in un centro specializzato, dovrà stare lì nella sua casa e lui se ne occuperà. Lui insieme a sporadiche visite di una badante, ma neanche troppo, perché è lì che si dovrà sublimare fino al gesto assolutamente estremo, l'amour del titolo. Un film, come abbiamo detto, molto duro, un film che non lascia spazio alla divagazione, c'è un sogno che è un incubo tra l'altro in questo film, girato con una regia come sempre asciutta, la definirei lancinante da parte di Michel Haneke, un film che ti fa uscire con una il dovere quasi morale, con il bisogno di riflettere su questo tema, su quello che accade, su quello che accadrà, su quanto la vita, per come noi la viviamo, fino al momento prima in cui cominci a sfuggirci di mano, è qualcosa di estremamente corporeo, e quanto questo sia nel nostro DNA di pensiero, quanto da questo noi non si riesca ad uscire. Un film che lo stesso Michel Haneke, sempre al Festival di Cannes, ha raccontato in conferenza stampa essere nato proprio dall'osservazione della sofferenza in maniera personale. L'histoire che je raconte c'est un peu une la storia che racconto è un po' una forma estetica dovuta alla nostra promessa di non ritrovarci in una situazione come quella del film. Ci siamo fatti questa promessa perché abbiamo visto ovunque, nel nostro gruppo, in alcune famiglie che conosciamo, nei nostri amici, che questo rappresenta veramente un grosso problema. E ci dicevamo, noi non faremo così. Dico questo perché ho vissuto una situazione simile nella mia famiglia che mi ha toccato profondamente. Ed è per questo che ho iniziato questo film. È tutto un po' legato a questo. Tutto qui. Michel Haneke, Amour, Palma d'Oro al Festival di Cannes nei cinema italiani da questo fine settimana, da questo giovedì, un film assolutamente da vedere. Andiamo a sentire come vanno le cose sulle strade e fra poco un altro maestro, Bernardo Bertolucci. La rosa purpurea. Sei proprio tu che sei storto dentro. Io non faccio male a nessuno. Lasciatemi in pace. Guarda che se tu te ne stai nascosto in un buco a farti i cazzi tuoi, non è che per questo sei migliore degli altri. Un pensiero, uno solo. Io cammino mentre dorme la città. E allora una clip da Io e te di Bernardo Bertolucci, subito il dialogo avete sentito, senza, non privo di affetto ma molto graffiante, fra i due protagonisti, il 14enne Lorenzo e sua sorella maggiore, sorellastra maggiore Olivia, e la musica di Space Oddity, la versione italiana, la ricorderete, quelli che non hanno proprio 15 anni, diciamo, ragazzo solo, ragazza sola, che fa parte della colonna sonora di Io e te, di Bernardo Bertolucci, il film con il quale apriamo questa seconda parte della nostra rosa purpurea. Un ragazzo di 14 anni con difficoltà evidenti di rapporto con i coetanei, insomma un ragazzo assistito anche da uno psicologo, figlio di genitori separati, vive con la madre alla quale a volte rivolge domande anche abbastanza imbarazzanti, insomma un ragazzo complicato in un certo modo. Vede davanti a sé una grande possibilità per stare da solo, che è la cosa che gli piace tanto fare, o nella quale la situazione è la condizione nella quale si sente più se stesso. La settimana bianca della scuola, dice alla mamma: vado in settimana bianca. La mamma gioisce, esulta, perché finalmente sembra che si voglia concedere a un'avventura collettiva. Invece si rifugia nella cantina sottostante il palazzo, lo stesso palazzo in cui vive, una cantina grandissima, averne di cantine così, ma insomma una cantina piena di scatoloni chiusi, di celofan, di polvere, una cantina nella quale è adatta una sorta di sopravvivenza per quella settimana che non sarà bianca ma sarà buia. Questo clima, diciamo così, questa situazione viene rotta, ed è proprio la parola giusta, perché c'è una vera e propria irruzione, quella di Olivia, la sua sorellastra 25enne che non vede da tantissimo tempo. Olivia arriva in questa cantina a sua volta con l'idea di prendere dei materiali, in realtà arriva a cercare un rifugio. Olivia è tossicodipendente, è in fuga dalla sua realtà. A un certo punto queste due solitudini cominciano a lavorarsi dentro l'una con l'altra e comincia a venire fuori un rapporto che permetterà a entrambi di crescere, di venire fuori. Il giovane Lorenzo, il 14enne Lorenzo, forse dalla sua linea d'ombra, lei di trovare forse la forza attraverso numerose vicissitudini di cercare da qualcos'altro che non sia appunto la droga, che non sia l'eroina, qualcosa, un motivo per cui andare avanti. Bernardo Bertolucci dirige dopo 9 anni dal suo ultimo film. Una lunga malattia lo ha costretto, l'avrete visto anche in programmi televisivi recenti, sulla sedia a rotelle, ma dirige con la forza di un tempo, un film non facile perché è ambientato tutto in questa cantina, quindi un film dove si deve raccontare la cupezza, si deve anche provare a non far sentire troppo un senso di claustrofobia. In effetti lui la chiama, Bertolucci, claustrofilia, quella dei ragazzi, soprattutto del giovane protagonista, uno che ama stare invece in un posto così chiuso dove si sente così protetto. È un film per molti versi di contrasti, come piace Bernardo Bertolucci, magari non tutto riuscito alla perfezione. Sicuramente però rimane un film che resta nei giorni, uno di quei film che nei giorni successivi alla visione cresce e si consolida, anche grazie appunto a questo lavoro straordinario di Bernardo Bertolucci, a questa capacità, del resto lo dice tutta la storia del suo cinema, da Ultimo Tango a Parigi in poi, di raccontare i personaggi chiusi dentro un ambiente, personaggi assediati, personaggi che devono cercare di risolvere se stessi, non con l'aiuto dell'ambiente circostante, ma quasi lottandoci contro. Allora, colleghiamoci con Thea Falco. A mio modo di vedere, la scoperta di questo film è una attrice fotografa, soprattutto fotografa, parte dalla fotografia, il suo grande amore, ed è quello per cui è conosciuta, da lì la chiamata adesso di Bertolucci, dicevo, 25 anni, catanese, un volto di grande intensità, un volto di quelli che rimangono. Salutiamo Thea Falco. Allora Thea, grazie per essere qui con noi alla Rosa Purpurea. Com'è stata questa avventura, com'è stato lavorare con questo maestro del cinema italiano? È stata l'esperienza più bella della mia vita fino adesso, e adesso è passato quasi un anno e mi piacerebbe ripeterlo perché l'ho scordato quasi tutto, quindi mi piacerebbe ripeterlo. Senti, è stata tra l'altro un'esperienza anche estrema in un certo senso, per voi due è stato, immagino, abbastanza così claustrofobico, comunque molto pressante. Sì, claustrofobico, perché ha fatto emergere in noi delle cose, cioè questa claustrofobia, quindi è servito tantissimo. Però lui questo spazio così piccolo l'ha fatto sembrare enorme. In realtà, come sei entrata nel personaggio? Quanto c'è di tuo? Quanto ci hai trovato dentro questo personaggio, della tua personalità? Allora, per la costruzione del personaggio io e Bertolucci abbiamo deciso di andare in un centro di tossicodipendenza, cioè ci sono andata solo io, e così ho studiato, ho rubato, è una cosa brutta da dire, però sono stata a contatto con questi ragazzi, mi hanno raccontato le loro storie. E così ho, diciamo, preso delle cose di questa cosa. Olivia di me ha il fatto che io sono fotografa anche, e quindi questo Bernardo, diciamo, l'ha preso e l'ha messo nel personaggio. Ecco, infatti proprio la cosa della fotografia è molto interessante. Tu sei una fotografa, tra l'altro anche premiata diverse volte. Adesso che il cinema ti ha scoperto, che ti ha lanciato tra l'altro sulla vetrina più importante del mondo, quella del Festival di Cannes, è cambiato il tuo rapporto con le arti, cioè il tuo equilibrio fra fotografia e cinema? Pensi di continuare a fare cinema? Hai avuto altre proposte? Ma sicuramente non è cambiato, perché la fotografia è un mezzo espressivo come la recitazione, e sto continuando a fare mostre in questo periodo morto dopo il film, in attesa di altre proposte cinematografiche interessanti. Con chi ti piacerebbe lavorare per le tue prossime esperienze? Hai un regista col quale dici mi piacerebbe fare un film con lui? Dopo Bertolucci non è facile, però insomma, dimmi. Mi piacerebbe moltissimo lavorare con Zemeckis. Vabbè, insomma, miri in alto, sì. Diciamo così. Cioè. Sì, sì. No, vorrei fare Ritorno al futuro 4, è un mio sogno che avevo da bambina. In bocca al lupo, sì, per l'avventura in sala di questo film. Grazie mille. E allora, Tea Falco, La Rosa Purpurea, io e te di Bernardo Bertolucci, giochiamo insieme, prima traccia del game di oggi. Voi? Siete qui? Io, beh, sono qui, ma voi siete il principe. Perdonatemi, con quest'abito mi lasciate senza parole. Sempre meglio che senza pantaloni. La Rosa Purpurea, @radio24.it, come sempre, titolo del film, se avete già indovinato di che film si tratta, vostro indirizzo per provare a vincere una copia in Blu-ray di questo film. Più tardi ci saranno altre due possibilità. Sulle note di Psycho Killer parliamo adesso brevemente del ritorno di Oliver Stone, perché anche questo accade in sala in questo fine settimana con un film che si intitola Le Belve, The Savages, il titolo originale, I Selvaggi, cast altisonante da John Travolta, Salma Hayek, Emile Hirsch, Blake Lively, insomma ce ne sono veramente tanti di nomi, Benicio del Toro, ma soprattutto i protagonisti Taylor Kitsch e Aaron Johnson, due amici che producono la migliore marijuana della California. Non lo fanno, diciamo così, per beneficenza, lo fanno per guadagnarci, ma lo fanno, come dire, inserendo questo fatto all'interno di un loro microcosmo di vita. A un certo punto, però, sulla loro strada irrompono i narcos messicani, che hanno saputo di questa qualità che si traduce in tanti soldi di questa droga prodotta da questi due giovani, e vanno a trovarli con l'idea di proporre loro un accordo, come si diceva una volta, al quale non si può sicuramente porre un rifiuto. I discorsi da businessman li abbiamo apprezzati, ma a noi non interessa. Quindi voi rifiutate la nostra offerta? No, vi daremo la nostra azienda, ma ci chiamiamo fuori. Niente di personale. Niente di personale? Temo che il nostro cliente prenderà la cosa molto sul personale. Beh, mi dispiace. Noi lasciamo il business. È un po' che ci pensiamo. State facendo uno sbaglio. Sì. Vediamo 24 ore per ripensarci. Effettivamente stavano facendo uno sbaglio, diciamo così, mettersi contro questa potente organizzazione di narcotrafficanti. I nostri due, Ben e Chon, condividono anche, oltre che per la passione per la produzione della marijuana, anche la stessa bellissima ragazza che a quel punto viene rapita da questa potente organizzazione capitanata da una donna cinica, e dovranno cercare di stare al gioco, di seguire quelli che saranno i consigli, diciamo così, di questa organizzazione per evitare una morte davvero lenta e dolorosa alla loro coamata, potremmo dire così. Allora, Oliver Stone, come abbiamo detto nei titoli, sembra un po' Tarantino in questo film, ma Oliver Stone, già da Natural Born Killers, ci aveva abituato anche alla capacità di tracciare i ritratti di questi personaggi che si trovano in qualcosa di più grande di loro. Pensate anche a un film come Salvador, tanto per dire. Insomma, quando la situazione circostante ti sovrasta e tu ti senti un po' schiacciato, devi trovare a tutti i costi un modo per uscirne. Questa è una delle specialità della casa Oliver Stone, che torna però al cinema d'azione dopo tanti anni, e lo fa in maniera interessante comunque, anche grazie al ruolo di alcuni personaggi di contorno, per esempio il poliziotto corrotto di John Travolta, piuttosto divertente. Un film che riesce a dare un buon intrattenimento d'azione, e quindi sicuramente consigliato a chi ama questo tipo di genere, con una regia raffinata, in certi momenti anche addirittura rarefatta, purtroppo anche ammazzata da un doppiaggio non molto all'altezza, da un adattamento che fa parlare gli ispanici più o meno così. Fammi vedere i tuoi occhi. Dimmi, va tutto bene? Sì, madrina. Perché lo chiedi? Mi hai davvero delusa, Lado. Sono dovuta venire a Gringolandia per scoprire tutto? Credevi che non mi sarei accorta di un ammanco di 3 milioni di dollari e della morte di 7 dei miei uomini? Mi dispiace molto, madrina. Sono stato stupido a non dirtelo, lo sai. Insomma, un adattamento da avanspettacolo per i personaggi ispanici di Le Belve di Oliver Stone nei cinema italiani. Linea alla regia, fra poco tocca a Viva l'Italia. La rosa purpurea. A fregnoni che fate la fila, ribellatevi! Io non ho fatto l'impegnativa! Non ho il ticket e in più sono raccomandato da mio figlio che fa pure il comunista! Ma stai zitto! Scusate, non è vero, eh? Non è vero, abbiamo fatto tutta la trafila, è tutto regolare. Complimenti, signorina, buona. Serve una mano? Magari. Gli hai data la schiacciatina a questa ricca? Papà, Elena, mia fidanzata, dai. Elena, bel nome, storico, Elena di Troia. Ma papà, e basta, eh? Ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono. Una clip da Viva l'Italia apre la terza parte del nostro programma. Viva l'Italia, la nuova commedia corale in sala diretta da Massimiliano Bruno, con un cast che annovera Raul Bova, Michele Placido, che avete sentito nei panni del protagonista in questa gustosa clip, Alessandro Gasman, scusate, Ambrangiolini, insomma tanti tanti nomi, ma anche quello di Rocco Papaleo che è con noi e che saluto. Ciao Rocco! Ciao, buongiorno. Bentornato alla Rosa Purpura come protagonista, coprotagonista di questo film, come vi ho detto, commedia corale nella migliore tradizione italiana, molto, molto amara, molto sarcastica e che parte da uno spunto straordinario, me lo di vedere. L'avete sentito nella clip. Cosa succederebbe, in questo caso è un politico corrotto e corruttore, quello interpretato da Michele Placido, con tutta questa stuola di 3 figli che a vario titolo, anche quelli più puri, bene o male, hanno attinto, diciamo così, ai vari capacità di mestierante del padre, e quindi nessuno può dirsi puro fino in fondo, è un po' una delle tante metafore del film, ma insomma cosa accadrebbe se a un certo punto una malattia, una botta, qualcosa ci facesse dire solo e sempre inevitabilmente la verità. E questa è una grande intuizione, a mio modo di vedere, una grande maschera che cade, e chissà che mondo sarebbe, Rocco, se tutti dovessero dire solo la verità e sapessero dire solo la verità. Diciamo, sarebbe un mondo in conflitto perenne. Alla fine potremmo veramente cambiare le cose, soprattutto se la verità la dicessero poi delle persone che stanno nei ruoli di potere. Che più che verità, sai, alla fine ci vorrebbe anche un po' più di rispetto della gente, questa rete di menzogne, no? Sotto cui siamo. Viviamo tutti quanti. Il film propone uno spunto, diciamo, commedioso, ma non solo. Dici bene che si tratta di una bella intuizione per raccontare un po' questo momento storico. La situazione è brutta, brutta, brutta, tesoro. In televisione non ti vogliono più, la pubblicità è saltata. Ora, per usare un'espressione che forse un po' troppo colorita, ma che non si distacca tanto dalla realtà, ti dirò che siamo nella merda. Ah. Ma non è il momento di arrendersi, è il momento di pregare e sperare che tuo padre guarisca. Sì, ho capito, ma scusa, io, a parte papà, c'ho anche una mia professionalità. Mi è sempre piaciuto il tuo senso dell'umorismo. Tu lo sai perché piaci? Perché sei mediocre come loro. E questa è un'altra delle tante verità che vengono rivelate proprio dal personaggio di Rocco Papaleo nel film, quanto la mediocrità sia poi quel minimo, ma proprio minimo, comune denominatore che fa arrivare il messaggio, il personaggio, l'attore, la star, cioè a tutti. E però a furia di andare così ci siamo dimenticati, Rocco, che non deve essere per forza sempre minimo il comune denominatore. Assolutamente. Questa, mi fa piacere che hai mandato questo frame del film, è proprio una la mia battuta preferita, perché anche questo è lo specchio del momento, di questo non talento che imperversa. Ora non voglio aprire la questione della capacità, eccetera, che se ne dibatte continuamente. Dobbiamo in fondo anche essere un po' sintetici e anche pensare a raccontare questo film, che comunque propone uno spunto di divertimento e non solo, come dicevamo. Però questa questione della non capacità che popola i palinsesti televisivi, diciamo, è un'altra delle ragioni del nostro, come dire, di questo decadimento culturale, artistico che viviamo un po'. E allora andiamo a rivedere e anche a ridere molto, devo dire, in questo film, tra l'altro con prove di attori davvero molto molto interessanti. Viva l'Italia, che è quasi uno slogan, ma è anche qualcosa che cela sempre molte molte altre cose nei cinema italiani. Grazie a Rocco Papaleo per essere stato qui con noi alla Rosa Purpurea. Grazie a voi dell'attenzione. E allora, Viva l'Italia, un altro dei film di questo fine settimana così ricco. Giochiamo insieme con la seconda traccia del nostro game. Sapete, tutti hanno notato che magnifico ballerino siete stato ieri sera. Oh, grazie Vostra Altezza. Ho una domanda riguardo la serata. Mm-hmm. C'era una ragazza, capelli neri, era molto bella. Bella? Sì, la ragazza più bella che abbia mai visto. Se avete indovinato di che film si tratta, diteci il titolo, il vostro nome, cognome e indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Provate a vincere un Blu-ray di questo film per il sabato e per la domenica, e settimana prossima vi diremo quali sono i vincitori. Le note di It's Raining Men cantate dal vivo durante il musical Priscilla, perché come sapete la Rosa Purpurea cerca di aprire i suoi orizzonti a quanto cinema c'è, l'abbiamo chiamato altri cinema questa nostra sezione, a quanto cinema c'è in altre arti, e il musical sicuramente è quella che negli ultimi tempi più di più è stata, non solo come succedeva tradizionalmente, qualcosa che veniva generato dal musical, cioè il film che partivano da un musical, ma molto spesso ormai si assiste a musical che partono da un film. È il caso di Priscilla, vi ricordo nelle settimane scorse abbiamo accennato a Shrek, alla Febbre del Sabato Sera. Milano in questo momento ha 3 spettacoli di derivazione broadwayana dal vivo, di musical di grande sapore cinematografico, quindi come dire assolutamente una grande opportunità. Adesso ritorna Priscilla dopo lo straordinario successo della scorsa stagione alla Fabbrica del Vapore. Questa volta il palcoscenico è quello prestigioso del Teatro degli Arcimboldi, uno dei più belli, più grandi d'Italia, dei più adatti a ospitare un grande spettacolo di musical. E allora dal 6 novembre agli Arcimboldi a Milano per 2 mesi ancora Priscilla, ancora il divertimento di questo straordinario musical tratto da un film altrettanto straordinario. È con noi il produttore della versione italiana del musical Priscilla, Daniele Luppino, che saluto. Un saluto, Daniele. Buonasera a voi. Allora, cosa rimane di un film una volta che sale sul palcoscenico e che diventa musical, nel caso vostro con Priscilla? Beh, in questo caso siamo partiti da un film cult e sicuramente uno degli elementi importanti che riconduce al film sono i costumi. Quindi i costumi di Priscilla hanno vinto l'Oscar al tempo del film e hanno vinto il Tony Awards a Broadway, per cui osannati all'ennesima potenza abbiamo oltre 500 costumi che sono una componente particolarmente importante dello show. E poi centrale ovviamente questo Buzz, che è proprio il protagonista vero di questa storia, di questo racconto, di questo viaggio, che vive sul palcoscenico attraverso una struttura super tecnologica che si muove, che si accende, che vive a tutti gli effetti insieme ai nostri 3 protagonisti. E allora, ricordiamo l'appuntamento dal 6 novembre per 2 mesi, Priscilla il musical al Teatro Arcimboldi a Milano. Lo ricordo, film che fu presentato al Certain Regard di Cannes nel 94, diretto da Stephen Elliott. Nel cast di quel film c'era gente del calibro di Guy Pearce, di Terence Stamp. Qui abbiamo un grande cast vocale, oltre che di attori, in questo musical. Tra l'altro i costumi di cui parlava Daniele Luppino sono stati anche premiati con l'Oscar quell'anno, per cui spettacolo per gli occhi sicuramente, ma anche per le orecchie, con queste straordinarie straordinarie hit degli anni 70 e 80. Grazie Daniele. Grazie a voi, tra l'altro devo anche raccontarvi che il giorno della prima, il 6 di novembre, Stefanelio sarà con noi al Teatro degli Arcimboldi. Vabbè, un grande regalo per tutti i cinefili poter incontrare Stefan Elliott a Milano per la nuova prima di Priscilla. Io ricordo anche ai nostri ascoltatori che noi vogliamo regalarvi dei biglietti di Priscilla, perché la Rosa Purpura è sempre molto generosa. E allora cosa succede? Questa volta il gioco si svolge così: per vincere una coppia di biglietti di Priscilla, il musical, per il 6 novembre per gli ascoltatori del sabato e una coppia di biglietti per quelli della domenica, dalle 19 di oggi troverete su Facebook una domanda che alla quale dovrete rispondere, una domanda inerente il musical Priscilla. Allora voi andate sulla nostra pagina Facebook La Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace. A quel punto troverete la domanda, rispondete alla domanda, fatelo anche nei prossimi minuti, perché non sarà una domanda tenerissima, non sarà neanche molto difficile, ma insomma sarà una domanda alla quale è possibile rispondere magari documentandosi un attimo, e il primo dei nostri ascoltatori che darà la risposta esatta vincerà una coppia di biglietti per il musical Priscilla, per gli Arcimboldi, per il 6 novembre qui a Milano. Abbiamo due biglietti per il sabato, due biglietti per la domenica, ma si tratta di coppie, insomma dovete andare in due. Questo per intenderci. Allora, ricapitoliamo, dalle 19, appena finito il programma nella sua versione del sabato, sulla nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace e rispondete alla domanda che troverete inerente il game di Priscilla. E poi verrete contattati ovviamente dalla nostra redazione, che vi dirà come fare a ritirare questi biglietti, insomma come prosegue il vostro iter. Vi aspettiamo numerosi, a questo punto sentiamo come vanno le cose sulle strade. La Rosa Purpurea. Eccoci, quarta parte del nostro programma, e cosa ci aspetta? Ci aspettano i film da vedere a casa, con questo inverno che pian pianino comincia a far sentire i suoi prodromi, allora forse è bello anche ogni tanto alla sera lì vedere qualcosa, ma qualcosa di bello, qualcosa di gratuito, qualcosa che rinfreschi la nostra cinefilia. Lo facciamo con gli amici di Film TV, del settimanale Film TV, e con noi Giulio San Giorgio, che saluto, ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati con le nostre segnalazioni. Ecco, le nostre segnalazioni questa volta partono da lontano, ma da un vero e proprio capolavoro di cinema dell'immediato dopoguerra, 1946, quando Robert Siodmak dirige La Scala Chiocciola. Sì, La Scala Chiocciola, lunedì 29 su Rai 1 alle 2:25, siamo all'inizio del Novecento in una città del New England. Sono state uccise donne con un minimo comune denominatore, avevano un handicap o un difetto fisico. Robert Siodmak gira un film tra il romanzo gotico, gli assassini di Poe, le atmosfere psicanalitiche tipiche dell'espressionismo tedesco. È un film infatti gonfio di simbolismi e con più di un rimando alle deformazioni superomistiche naziste. Rimane un capolavoro del cinema nero, datato 46, ma capace di impressionare ancora oggi e far impallidire la maggior parte dei film su assassini seriali girati nell'oggi. E allora non fatevelo sfuggire, o comunque se lo volete rivedere, lunedì 29 ottobre alle 2:25 di notte su Rai 1. Poi invece qualcosa di più vicino nel tempo, di più vicino nella tematica di attualità, ai noi anche oggi, cioè l'Armenia del postcomunismo, in Vodka Lemon di Hiner Salem. Sì, martedì 30 sulla 7D alle 23:10, Vodka Lemon. Siamo nel Kurdistan armeno, un vedovo ex ufficiale dell'Armata Rossa con figli dispersi ovunque in vari paesi prova a costruirsi un futuro con una bella vedova incontrata al cimitero del villaggio. Salem, curdo iracheno fuggito a Saddam, mescola abilmente realismo, situazioni comiche, invenzioni surreali e bozzetti naif in un film malincomico dove la narrazione è piena di vuoti e ellissi, e la landa armena con il suo spazio desolato e bianco sono metafore dell'impossibilità del popolo curdo di trovare un centro, un'identità geografica, un baricentro. Premiato a Venezia nel 2003 nella sezione controcorrente, il film non fu candidato agli Oscar per il miglior film straniero perché Salem volle a tutti i costi il Kurdistan, stato non riconosciuto dall'ONU come paese coproduttore. E allora l'appuntamento con Vodka Lemon è martedì 30 ottobre alle 23:10 su La 7D. Grazie Giulio e appuntamento alla prossima settimana. Ciao, alla prossima con le nostre segnalazioni. E allora è arrivato il momento di giocare per l'ultima volta con il nostro game di oggi. Ah, non mi arrendo di certo, sto solo dicendo che non mi batto con un mucchio di nani come voi. Perché? Siete minuscoli. di che film si tratta, La Rosa Purpurea @radio24.it, nome, cognome, indirizzo, come sempre. E settimana scorsa invece avevamo giocato così. Non teniamo il tempo senza la batteria, ci serve la batteria! Scusa, Animal! No batteria, no batteria! Jack Black ha detto no batteria! E beh, insomma, devo dire, non hanno indovinato in molti questa volta. Hanno giocato in molti, ma non hanno indovinato in molti. Evidentemente c'è un gap generazionale in questo senso, ma si trattava dei Muppet, del film che la Disney ci ha regalato per dare emozioni a chi, come me, non ha più proprio 20 anni, ma che magari è cresciuto con queste straordinarie situazioni dei Muppet Show. E allora i Muppet arriveranno ad allietare le serate di Mattia Righini di Cervia e di Pier Attilio Stea di Cuneo, che hanno indovinato per primi il sabato e la domenica il nostro quiz. Un film che ci facciamo raccontare nella sua edizione on video dal nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, edizione Disney on video per i Muppet, sia DVD che Blu-ray. Noi ovviamente consigliamo la versione in alta definizione, con questo formato di immagine prossimo all'originale, che sono immagini di strepitosa qualità. C'è una doppia traccia audio DTS ad alta risoluzione, fortunatamente anche per l'italiano e per l'inglese, che sono entrambe 8 canali. Come extra segnalo il commento audio con l'attore Jason Segel in compagnia di regista e sceneggiatore. Ci sono 16 minuti sulla realizzazione, una buffa prova di lettura del copione, 8 scene eliminate e 7 trailer parodia del film. E questo allora per quel che concerne i Muppet, il game della scorsa settimana. Passiamo invece alle recensioni, andiamo alle atmosfere gotiche di Tim Burton, gotico divertenti, gotico comiche potremmo dire questa volta, di Tim Burton con Dark Shadows. Recati all'inferno e alla svelta, prego, me li possa Asmodeo in persona succhiare le tue mammelle malate. Nessuno parla più come te, Barnabas. Sì, infatti, devo dire che questa era rimane un mistero per me. Dammi una buona ragione per non ucciderti. A metà del XIII secolo, il britannico Collins Barnabas è il giovane rampollo di un'aristocratica famiglia inglese che ha fatto fortuna nel Nuovo Mondo. Conteso tra due donne, si mette contro quella sbagliata, sotto le cui mentite spoglie si cela una potente strega che lo trasforma in vampiro, facendolo seppellire. Barnabas si risveglierà in un mondo inconcepibile, quello dell'America del 1972, assetato di sangue e vendetta. Tim Burton nuovamente alle prese con una commedia dark, anche se questa volta con qualche nota di colore in più, sottolinea nuovamente quanto mostri e mostruosità non siano tutti uguali, e certo non tutti mostri in egual misura. Da Warner Home Video un'eccellente edizione sia DVD che Blu-ray alta definizione. Noi come al solito consigliamo la versione HD con immagini di gran qualità, meno bene l'audio con la consueta traccia Dolby Digital multicanale del DVD, migliore l'inglese in DTS ad alta risoluzione. Per gli extra segnalo su tutti il cosiddetto Maximum Movie Mode, ovvero la possibilità di visionare molteplici approfondimenti sulla lavorazione da seguire immagine nell'immagine durante la visione del film. E un'altra segnalazione invece assolutamente doverosa, perché torna in videoteca, dove è stato già tante volte in tanti formati, ma con un cofanetto davvero importante, la saga di Indiana Jones, dei Predatori dell'Arca Perduta, che ha saputo raccontare la saga di questo archeologo detective. Sono ormai circa 3.000 anni che l'uomo sta andando alla ricerca dell'Arca Perduta. Non bisogna prenderla alla leggera. Nessuno conosce i suoi segreti. Nessuno di noi ha mai tentato niente di simile. Marcus, ma che tenti di fare? Di spaventarmi? Mi sembri mia madre. Noi ci conosciamo da anni. Io non credo nella magia, sono solo un mucchio di stupide superstizioni. Il cofanetto edito da Paramount e distribuito da Universal Pictures Home Video comprende la quadrilogia del mitico archeologo, di cui i primi 3 editi per la prima volta in alta definizione. 4 Blu-ray per godere al meglio di opere le cui immagini rivivono grazie a un costoso e lungo procedimento di restauro. Per l'audio l'offerta si limita alla traccia Dolby Digital multicanale per l'italiano e DTS alta risoluzione per l'originale inglese. I Predatori dell'Arca Perduta tra l'altro offrono una doppia traccia in italiano che comprende anche il doppiaggio originale dell'81. Sono tantissimi gli extra su un disco separato con focus sui singoli film, immagini dell'epoca, interviste, effetti speciali e gli stunt, per un totale di circa 7 ore di supplementi. E allora grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto. E allora qui abbiamo finito la nostra corsa di quest'ora di cinema, di questo weekend ricco di grandi maestri, di grande cinema in sala. Allora, appuntamento in sala, ma appuntamento anche, come sempre, sulla nostra pagina Facebook per tutti i vostri commenti. Cliccate mi piace, sarete informati, farete parte della nostra community. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, grazie a Peter Bescapè in regia. Appuntamento alla prossima settimana.